però il principio era che doveva essere un bellum iustum ed era non solo formalmente giusto, era sostanzialmente giusto, sostanzialmente. Basta leggere Sant'Agostino e uno se ne accorge, Sant'Agostino riprende Cicerone. Stacco musicale proposto Naked, nudo, Sierra Cahun da questo lavoro per la Sub Pop alle 7:53 minuti per intervallare la nostra conversazione e ringraziando anche il professor Giovanni Brizzi che aprirà la rassegna domani esattamente alle ore 21 al chiostro di San Domenico in piazza San Domenico. Perché la guerra? Apertura dal punto di vista storico, guerra nel mondo classico. Abbiamo parlato di altri due appuntamenti, ne daremo una più approfondita anticipazione. Velocemente vi dico che mercoledì 13 settembre alle ore 21 Andrea Sant'Angelo, Gastone Breccia, docente di storia bizantina e storia militare antica all'Università di Pavia, con Francesca Rigotti, filosofa e saggista. Guerra oltre la guerra, questa la tematica. Si conclude mercoledì, anzi martedì, perché sono tutti martedì, tre appuntamenti, 5, 13 e 19, sempre al chiostro alle ore 21, con l'aspetto filosofico. Protagonista sarà presente Massimo Cacciari. Quindi concludiamo la nostra conversazione col professor Giovanni Brizzi a proposito di questa 13ª edizione di Serate nel Chiostro, ricordando la curatela della società editrice Il Mulino. Ecco, le guerre successive sono tutte specchiate sulle loro epoche. Io credo che l'epoca attuale sia la più pericolosa, perché